chi ha paura del passato remoto. Cosa ci fanno le galline allo zoo? Le parolacce si possono insaponare? Ma soprattutto, quante storie possono stare in tasca? Radio Città Fujiko presenta Storiette Tascabili. Massimo Vitali legge Luigi Malerba. Le cose da mangiare. Due galline che erano andate a visitare il giardino zoologico rimasero molto stupite di non trovare una gabbia con dentro i vermi. «Beh, ma che razza di giardino zoologico è questo?» si dissero scandalizzate. Avevano visto le gabbie con dentro i leoni e i leopardi, le giraffe e gli ippopotami, avevano visto il reparto speciale dei serpenti e le voliere con le aquile e gli altri uccelli, ma dei vermi nemmeno l'ombra. «Forse i vermi non fanno parte della categoria degli animali», si dissero le due galline. «Ma allora a quale categoria appartengono?» Ci pensarono molto e alla fine decisero che i vermi appartengono alla categoria delle cose da mangiare, proprio come gli spaghetti. Mentre uscivano dal cancello del giardino zoologico, le due galline si guardarono in faccia preoccupate. Si erano ricordate che nel giardino zoologico non c'erano nemmeno le galline.